Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Oggi 24 settembre è il giorno del tuo sesto compleanno, mio piccolo Enrico. Ti sono tanto vicino e ti penso intensamente. Questa data sarà una svolta per te. Inizierai la scuola. Da lontano, col cuore, ti faccio tanti auguri e ti mando tanti bacioni. Promettimi di essere bravo con la mamma e di iniziare bene la scuola. Quel giorno chiuderò gli occhi e ti vedrò col tuo grembiolino nero, il colletto bianco e la piccola cartella rossa. E penserò a te. Mi chiamo Enrico Solmi, sono nato a Modena nel 64, vivo da tutta la vita a Maranello e nelle zone limitrofe. Sono separato, dopo un matrimonio durato 5 anni, sono un chimico, lavoro in un laboratorio di analisi. Cara madre, vi scrivo questa lettera che è l'ultima lettera che vi scrivo. Ve ne ho scritte tante di lettere, tante, una al giorno per tanti anni. Voi mi dicevate scrivi, scrivi, e io sempre avevo scritto una lettera al giorno per tanti anni, per più di 50 anni. Solamente una volta non avevo scritto, che difatti voi mi diceste come mai che non hai scritto, Di tante lettere che mi hai scritto, come mai che sta lettera non me l'hai scritta? Che io vi dissi che non potevo per via della disgrazia. C'era stata la disgrazia e io non potevo stare lì a perdere tempo, a impiegare il tempo con le parole scritte. Che voi però, cara madre, mi diceste ma prima o poi me la scriverai sta lettera. Mica che mo adesso mi nasci senza una lettera, nel mentre che tante lettere che mi hai scritto. Che io vi dissi che sì. Ve l'avrei scritta la lettera, ma non subito, cara madre, perché certe cose uno o subito le scrive, che ci mette testa, oppure gli ci vuole una vita intera per trovare le parole giuste per dire. E io adesso, cara madre, dopo tanti anni, dopo più di 50 anni, dopo una vita intera, io sta lettera mancante, questa qua, io sta lettera ve l'ho scritta. Cara mamma, mi fa strano solo dirlo, dire la parola mamma. È la prima volta che ti scrivo, anzi, probabilmente è la prima volta che ti parlo. Non so bene da dove cominciare. Vorrei raccontarti un po' della mia vita, di chi sono, di chi sto diventando. Di te ho un ricordo ben presente, vivo, nonostante siano passati tanti anni da quando non ci sei più. Ricordo il tuo odore, i tuoi capelli, i tuoi occhi che tante persone rivedono in me. Ricordo la sensazione di calore quando mi abbracciavi, nonostante avessi a malapena la forza di stare in piedi. Ricordo quanto mi piaceva starti vicina mentre lavoravi con la macchina da cucire, e io ti saltavo intorno. Ma tu eri paziente, non ti arrabbiavi mai. Mi fa molta rabbia non averti potuta conoscere. Ultimamente ho cominciato a credere nel destino. Ho cominciato a pensare che alla fine tutto accade per un motivo ben preciso. E da un po' di tempo ho cominciato a seguire il mio istinto. Ho smesso di programmare sempre tutto e di volere tenere sotto controllo ogni fottuta cosa. Sai, adesso sono felice. Ho una ragazza. Tu l'ameresti. Lei è il tipo di ragazza che le mamme amano. Mamma, non so dove sei adesso, non so se puoi sentirmi, non so se puoi leggermi. Porto addosso i tuoi segni, porto con me il tuo ricordo e forse un po' della tua ragione. Mi piacerebbe che fossi fiera di me, in qualche modo. Mi manchi, per quanto cerchi di negarlo. Gabriele. Quella di oggi è una puntata particolare per un motivo molto semplice, perché non erano contemplate nelle categorie di racconti che noi che abbiamo richiesto e che riceviamo tutti i giorni a Voi Siete Qui, @radio24.it. Le lettere personali non erano richieste, perché appunto noi chiediamo un racconto che vi racconti, un racconto che racconti qualche cosa di voi e che quindi abbia una piccola storia al suo interno, anche se minima, anche se sembra esigua, però una storia con un inizio, uno sviluppo e una fine. In questo caso invece è arrivata una lettera, ne sono arrivate diverse, perché poi ad esempio la lettera che vi ho appena letto è una lettera che Gabriele mi ha mandato questa mattina, proprio perché sul profilo Facebook avevo richiesto di mandarmi una lettera, la vostra migliore lettera che avete scritto, se avete voglia di condividerla. E Gabriele mi ha mandato questa lettera che lui ha scritto qualche settimana fa a sua mamma, che non c'è più da qualche anno, come avrete capito. La lettera però che è protagonista di questa storia è un'altra, è una lettera che qualche anno fa il papà di Enrico, che è il protagonista di oggi e che ha deciso di tirare fuori questa lettera e spedirmela, il papà di Enrico era lontano per lavoro e più tardi capiremo anche che lavoro faceva, scrisse alla mamma di Enrico, a Medea, perché lei la leggesse anche a lui e alla sorellina. Ripeto, non ha molto a che fare con le storie che noi chiediamo in questo programma, però ci sono poche cose come le lettere che vanno, che partono dal cuore e che partono da una zona nascosta di ognuno di noi, e quindi abbiamo deciso di dedicare una puntata a questa, proprio a questa lettera, la lettera di oggi e alle lettere in generale. Infatti più tardi poi ho trovato delle lettere meravigliose che vorrei leggervi e quindi lo farò dopo. 349-238-6666 se avete voglia di condividermi comunque magari un pezzo di una lettera che avete scritto, magari un pezzo di un SMS, visto che di SMS sto parlando anche, che avete mandato a qualcuno. 349-238-6666. La storia di oggi però è la storia di Enrico e della lettera che gli mandò suo padre. La lettera fa parte di una raccolta di lettere che mia madre mi consegnò poco prima di morire, morta qualche anno fa. Io non sapevo che esistessero queste lettere. E chiaramente le ho lasciate lì per qualche anno e poi le ho ritirate fuori e ho cominciato a leggerle. Ed è venuto fuori una sorta di romanzo familiare, insomma, una riscoperta proprio di, della mia famiglia, di mio padre, che è morto che io ero ragazzino. Amedea cara, finalmente trovo il tempo per scrivere dopo la conclusione molto buona della corsa, il Gran Premio del Canada del 20 settembre, vinto da X davanti a Regazzoni. In questi 4 giorni dopo la corsa abbiamo lavorato molto per preparare le macchine e spedirle in America, all'indirizzo che ti ho scritto nella prima lettera, sperando che sia arrivata. Domattina partiremo pure noi e spero, arrivando, di trovare posta. Sto osservando dalla finestra della camera il paesaggio. È molto bello, suggestivo. Alberi verdi, lago, montagne. Ma tutto questo non rallegra il mio cuore. Penso a te e ai bambini. E io così lontano. Non so dirti quanto è dura. Molto, molto dura. Oggi, 24 settembre, è il giorno del tuo 6° compleanno, mio piccolo Enrico. Ti sono tanto vicino e ti penso intensamente. Questa data sarà una svolta per te. Inizierai la scuola. Da lontano con il cuore ti faccio tanti auguri, ti mando tanti baci. Promettimi di essere bravo con la mamma e di iniziarla bene la scuola. Quel giorno chiuderò gli occhi e ti vedrò col tuo grembiulino nero, il colletto bianco e la piccola cartella rossa. E penserò a te. Mia cara Manuela, pure tu inizierai la scuola. Sii diligente e brava. Aiuta Enrico. Sii brava e buona con la mamma. Io non ti abbandono un attimo col mio pensiero. Seppur lontano ti sono vicino e idealmente ti abbraccio e ti mando tanti baci assieme a Enrico e a mamma. Voglio sperare che penserai a me e presto riceverò una tua letterina. Vostro Bruno. Ho sempre fatto lavoro abbastanza, diciamo, sedentario. Qualsiasi viaggio faccia che mi allontani un attimo da casa, il distacco lo sentivo parecchio dalla famiglia, dalla terra d'origine. La stessa mia madre, avendo fatto la mondina, anche lei scriveva lettere a mio padre quando erano fidanzati. Come along a good husband, come along a fair bride, call the latest inception and you look plain inside. It's just a timeshare, it's a fine contagious disease, and it's a fine swirling white god man, play a tombstone on. Ci sono alcune persone che dicono che l'avvento delle nuove tecnologie abbia distrutto la scrittura, abbia distrutto la lingua italiana o abbia dato la spallata finale allo studio generale della letteratura. Però ci sono anche persone che dicono che il cinema o la TV o il web adesso abbiano tolto la capacità di immaginare perché ti riempiono di figure preconfezionate. Ecco, io non sono proprio un sociologo, però non sono per niente d'accordo con queste teorie. Credo che ad esempio alcuni oggi usino gli SMS mentre prima forse non sapevano nemmeno scrivere, o che l'avvento delle email abbia aumentato anziché diminuire il numero di persone che comunica utilizzando la parola scritta. E leggendo la lettera di Bruno io mi sono commosso e solo dopo un po' ho capito il motivo. Questa lettera è del 1970 e quella era un'epoca di grandi distanze e di pochissime comunicazioni. Volare in un altro continente non era così facile come oggi e telefonare comportava una grossa spesa. Non esistevano SMS, telefonini, non esisteva Skype. La distanza era una vera distanza, nello spazio e nel tempo. E quindi Bruno, un giorno e più di un giorno, ha scritto da Medea. E poi attraverso di lei si è rivolta al figlio, piccolo, Enrico, e poi anche all'altra, quella maggiore, Emanuela. C'è una delicatezza e una misura delle parole che dipendono sicuramente dal carattere della persona che scrive, ma anche dal senso del peso che la penna sulla carta doveva avere, soprattutto se immagini che quel foglio avrebbe dovuto viaggiare fisicamente per migliaia di chilometri e per molti giorni prima di arrivare a destinazione. E allora ho pensato che la lettera scritta a mano, anche se non ne scrivo quasi mai, è un gesto intimo. E mi è venuto in mente quando io l'ho fatto per l'ultima volta. ed era un po' di tempo fa. Però questo è un ricordo effettivamente un po' troppo personale, e scusatemi, però oggi questo me lo tengo per me. Però ho ritrovato delle lettere che voglio leggere. Sono tre lettere storiche e sono completamente diverse tra di loro, però ognuna di loro è carica di emozione. La prima è la lettera di Abramo Lincoln, che scrisse quando era presidente degli Stati Uniti, quando decise appunto di mandare un messaggio di proprio pugno ad una donna, è conosciuta come la lettera Bixby. Quella donna era una madre di Boston che perse i propri 5 figli nella guerra civile. Questo è proprio un esempio di un comandante in capo di un esercito che parla direttamente alle vittime delle sue decisioni. Washington, 21 novembre 1864. Gentile signora, il Dipartimento di Guerra mi ha mostrato una dichiarazione del generale del Massachusetts. Lei è la madre di 5 figli che sono morti gloriosamente sul campo di battaglia. Sento che le mie parole, per alleviarle il dolore di una così forte perdita, sono deboli e inutili. Ma non posso evitare di scriverle, perché sono il ringraziamento della Repubblica per chi ha lottato per la sua salvezza. Prego il Padre Celeste perché l'orgoglio per il sacrificio dei suoi figli sull'altare della libertà prevalga sul dolore per la loro assenza. I più sinceri e cordiali saluti. Abramo Lincoln. La seconda lettera invece è una lettera che Kafka scrisse a 36 anni al padre, quando al tempo scriveva al padre Herman. È una lunga lettera che non fu mai consegnata al destinatario, e le parole sono queste qui. Caro papà, recentemente ti è capitato di chiedermi perché affermo che io avrei paura di te. Come al solito non ho saputo risponderti, in parte appunto per la paura che mi incuti, in parte perché motivare questa paura richiederebbe troppi particolari, più di quanti riuscirei a riunire in qualche modo in un discorso. Se ora tento di risponderti per lettera, anche questa sarà una risposta molto incompleta, perché anche quando scrivo mi bloccano la paura di te e le sue conseguenze, e perché la vastità del tema oltrepassa di gran lunga la mia memoria e la mia intelligenza. E l'ultima lettera invece è una lettera che è un pochettino più conosciuta, ed è una lettera che Oscar Wilde scrisse al suo fidanzato, Alfred Douglas, e la scrisse il giorno prima di conoscere la sua pena per il reato di omosessualità. Era nella prigione di Reading ed era il 1897. Mio carissimo ragazzo, questa è per assicurarti del mio amore immortale ed eterno per te. Domani sarà tutto finito. Se la prigione e il disonore saranno il mio destino, pensa che il mio amore per te e questa idea, questa convinzione ancora più divina, che tu a tua volta mi ami, mi sosterranno nella mia infelicità e mi renderanno capace, spero, di sopportare il mio dolore con ogni pazienza, poiché la speranza, anzi la certezza di incontrarti di nuovo in un altro mondo, è la meta e l'incoraggiamento della mia vita attuale. Devo continuare a vivere in questo mondo. Quanto a te ti prego, non appena avrai fatto tutto quello che puoi, parti per l'Italia e riconquista la tua calma e componi quelle belle poesie che sai fare tu. Se un giorno a Corfù o in qualche isola incantata ci fosse una casetta dove potessimo vivere insieme, la vita sarebbe più dolce di quanto sia stata mai. Il tuo amore ha ali larghe ed è forte. Il tuo amore mi giunge attraverso le sbarre della prigione e mi conforta. Il tuo amore è la luce di tutte le mie ore. Se il fatto ci sarà avverso, coloro che non sanno cos'è l'amore scriveranno, lo so, che ho avuto una cattiva influenza sulla tua vita. Se ciò avverrà, tu scriverai, tu dirai a tua volta che non è vero. Il nostro amore è sempre stato bello e nobile, e se io sono stato il bersaglio di una terribile tragedia è perché la natura di quell'amore non è stata compresa. Se dovessi morire, voglio che tu viva una vita dolce e pacifica in qualche luogo fra fiori, quadri, libri e moltissimo lavoro. Io sono ora devotamente il tuo, con un amore immortale, Oscar. 049-238-6666. Ora avete capito il motivo per cui questa puntata l'abbiamo dedicata completamente alle lettere, perché la lettera che Enrico ha tirato fuori e ha deciso di spedirci, anche se non era un racconto, andava molto più a fondo di altri racconti. Pronto Enrico? Sì, pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Innanzitutto grazie mille per questo regalo. Come? Scusa? Grazie mille per questo regalo, cioè per... Per aver voluto condividere questa cosa. Senti, quante erano le lettere però che hai trovato in questa... Erano una quarantina, andavano dagli anni 50 agli anni 70. Senti, ed erano tutte lettere che tuo papà scriveva quando era... Lui era cos'era? Un meccanico della Ferrari? Lui era, faceva parte della prima squadra corse, è stato assunto durante la guerra addirittura, ed era un cambista della prima squadra corse proprio. Cambista vuol dire cambio gomme? No, cambista vuol dire cambio e frizione. Ah, ok, ah, cambio, certo. Beh, perdona, io chiaramente ho solo in mente quelli che... Che allora erano ancora manuali, ovviamente. Certo, cambio manuale, ovviamente. Perché adesso invece è, cosa c'è? È sul volante, no, il cambio? Sì, è tutto elettronico. È tutto elettronico. Senti, quindi tuo padre aveva, cioè, faceva un lavoro di grande prestigio. Sì, di cui lui era molto orgoglioso, ma ovviamente comportava molti sacrifici, soprattutto allora. Quanti mesi era in giro all'anno? Ma... quando facevano le trasferte americane stavano via anche un paio di mesi. Negli anni 50 ci sono lettere con la trasferta argentina che stavano via 2 mesi tra gennaio e febbraio. Senti, e che tu prima, e poi purtroppo oggi non abbiamo moltissimo tempo e ti dovrò salutare, però tu prima raccontavi che di fatto tu hai ricostruito delle parti della tua vita o della vita familiare vostra attraverso quelle lettere. Assolutamente. C'è qualcosa che ti ha stupito, che non sapevi e che hai scoperto attraverso quelle lettere? Ma diciamo che quello che traspare è questo conflitto che traspare tra mia madre e mio padre. Chiaramente mia madre si accollava tutto il peso della famiglia, che non era poco, certo, perché lui era spesso via, e quindi ci sono proprio dei momenti in cui mio padre si sente la sua amarezza per essere lontano e per essere partito con mia madre che gli teneva il broncio. Immagino. E quindi il non poter essere in contatto con la famiglia doveva essere una cosa piuttosto lacerante per lui. Certo. Senti Enrico, tua sorella Manuela sta bene? Sì, molto. No, perché siamo affezionati un po' anche a lei, perché era rivolta a te e alla mamma, però anche a lei, quindi... Sì, mia sorella ha 5 anni più di me, ha lavorato anche lei in Ferrari come impiegata, ora è in pensione. Senti Simone, purtroppo ti devo lasciare, Enrico scusami, ti devo lasciare, però ti ringrazio moltissimo per il racconto e per la tua storia. Grazie a voi. Grazie, ciao, buona giornata. Voi siete qui. La foto che Enrico mi ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, la pagina Voi siete qui, è una foto in bianco e nero ed è proprio un ritratto di Enrico. Enrico a dire che ha pochi capelli è sbagliato, proprio non ne ha, nel senso che è rasato. Ha giusto un pizzo che assomiglia quasi a una mosca sotto la bocca, ha gli occhi neri e ha l'espressione che sembra quasi la stessa che trapelava dalla commozione che aveva mentre era al telefono con me. È arrivato il momento di regalare 2 biglietti. Sapete che questa è una roba che non facciamo mai, ma questa settimana ci tocca pure a noi. Il 18 e 19 di novembre c'è una serata al Teatro degli Arcimboldi di Milano che si chiama La Notte dei Publivori. È una serata in cui vengono trasmessi, credo, 500 spot pubblicitari. Mi pare che il tema sia anche gli spot brutti funzionano, più o meno una roba del genere. Il biglietto costa, mi pare, 10 euro, però noi ne regaliamo due al giorno. Il gioco è molto semplice, statemi a sentire. Io l'abbiamo già fatto ieri, l'altro ieri. Io vi racconto la trama di uno spot di qualche anno fa, voi lo indovinate e me lo scrivete al 349-238-6666. Il primo, il più veloce, si vince 2 biglietti, ok? Lo spot è questo qua, ripeto, era credo degli anni 80. Tutti dagli anni 80 arrivano, sembrano i migliori. Allora, siamo nel deserto, siamo in una specie di fortino e c'è un plotone di esecuzione. Ci siamo? C'è un tizio che è un attore famoso pure, coi baffi, che faceva parte di un trio. Vabbè, già l'avete capito. Dai, già l'avete capito. Era un attore famoso coi baffi, stanno per fucilarlo e gli chiedono: ha un ultimo desiderio? E lui dice: sì, fare una telefonata. Hanno già indovinato, Marghe? Hanno già indovinato? No, attenzione. C'è però una gabola. La gabola è che il nome dell'azienda era un altro, non è quello di adesso, era quello di allora. per cui non vale quello nuovo, vale quello dell'epoca. Quando lui dice sì, voglio fare una telefonata, rimane a parlare per tutto il giorno, per tutta la notte, e alla fine lo spot era tipo una telefonata allunga la vita. Ma non vale il nome dell'azienda di oggi, vale il nome dell'azienda di allora, ok? 349-238-6666. E torniamo ad oggi invece, perché oggi stiamo parlando di lettere. E quando ho letto il racconto di Enrico e abbiamo parlato delle migliori lettere scritte o lette nella nostra vita, a me è venuto in mente proprio un ricordo del liceo. Il ricordo del liceo era legato a un volume Einaudi che si chiama Lettere di condannati a morte della Resistenza Italiana. Sono delle lettere che sono state raccolte in luoghi diversi, da persone diverse, tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45, da appunto per lo più partigiani o persone che lottavano contro il fascismo, che sapendo di essere condannate a morte scrivevano a casa più o meno ai propri cari. Tra tutte ve ne vorrei leggere un paio. La prima è quella di una donna che è incredibile per la sciuttezza con cui lei scrive. Aveva 33 anni, si chiamava Maria Luisa Alessi, era un'impiegata, è stata catturata e fucilata dopo due giorni e dice così: come già sarete a conoscenza, sono stata prelevata dalla Brigata Nera, mi trovo a Cuneo nelle scuole, sto bene e sono tranquilla, prego solo non fare tante chiacchiere sul mio conto e di allontanare da voi certe donne alle quali io debbo la carcerazione. Solo questa sicurezza mi può fare contenta e soprattutto rassegnata alla mia sorte. Anche voi non preoccupatevi, io so essere forte, vi penso sempre e vi sono vicino. Tanta affettuosità, Maria Luisa. Sono centinaia chiaramente le lettere che si trovano in questa raccolta. Ce n'è una però in particolare, in mezzo a quelle di operai, di contadini, di impiegati o di studenti, ed è una lettera di Leone Ginsburg, che allora era un docente universitario, che scrive alla moglie. Caro amore mio, tenerezza mia, fra pochi giorni sarà il sesto anniversario del nostro matrimonio. Come e dove mi troverò quel giorno? E di che umore sarai tu allora? Ti prego, saluta e ringrazia tutti coloro che sono buoni e affettuosi con te. Debbono essere molti. Chiedo scusa a tua madre e in genere ai tuoi di tutto il fastidio che arreca questa nostra troppo numerosa famiglia. Bacia i bambini, vi benedico tutti e quattro, e vi ringrazio di essere al mondo. Ti amo, ti bacio, amore mio. Ti amo con tutte le fibre dell'essere mio. Non ti preoccupare troppo per me. Immagina che io sia un prigioniero di guerra. Ce ne sono tanti, soprattutto in questa guerra. E nella stragrande maggioranza torneranno. Auguriamoci di essere nel maggior numero, non è vero? Ti bacio ancora, e ancora, e ancora. Sii coraggiosa. Leone. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami. Il regalo più bello che il mio bimbo ha ricevuto è una lettera attaccata all'etichetta di una bottiglia di vino che il suo padrino gli ha regalato nel giorno del battesimo e nella quale lo invita ad aprirla il giorno del suo 18° compleanno. Massimo invece mi scrive: il mio blog sulle lettere di mio nonno a mia nonna prima di essere giustiziato ha avuto successo e ha avuto anche una pagina sul Messaggero. Massimo, se mi dicevi qual era il tuo blog, magari lo dicevamo. E poi Chicco da Pisa: ti va veramente di fortuna che mi piace leggere i messaggi che non c'entrano niente, c'hai una botta di culo. Ciao Matteo, lo so che non lo fai mai, non lo farai neppure ora, ma io ci provo. Puoi mandare un bacio a Ila da Chicco? Grazie se lo fai e grazie lo stesso se non lo fai. Chicco, veramente, guarda, ringrazia. La storia di oggi era la storia di Enrico, parlava di lettere. Quella di domani è la storia di Alberto e parla di salite in montagna. La mia guida fa un po' fatica. Gli chiedo se è tutto ok. Mi dice che non si è riposato bene. Non so se preoccuparmi, pensandomi su questo sentiero nero come la pece in piena notte, con lui giù di forma. Si riprende e in poco più di 4 ore siamo al Gilliam's Point, a 5.700 metri d'altitudine.